Canto diciannovesimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto diciannovesimo. O Simon Mago, o miseri seguaci, che le cose di Dio, che di bontade denno esser spose, voi rapaci per oro e per argento adulterate. Or convien che per voi suoni la tromba, perocché nella terza bolgia state. Già eravamo alla seguente tomba montati dello scoglio, in quella parte che appunto sovra il mezzo fosso piomba. O somma sapienza! Quant'è l'arte che mostro in cielo, in terra e nel mal mondo, e quanto giusto tua virtù comparte. I vidi per le coste e per lo fondo, piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti, e ciascuno era tondo. Non mi parie meno ampi né maggiori che quei che sono nel mio bel San Giovanni, fatti per luogo de battezzatori, l'uno dei quali, ancor non è molt'anni, ruppio per un che dentro v'annegava, e questo sia suggel ch'ogni uomo sganni. Fuor della bocca a ciascun soperchiava d'un peccatore i piedi e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano accese a tutti, entrambe, perché sì forte guizzavan le giunte che spezzate averien ritorte e strambe. Qual suole il fiammeggiar delle cose unte muoversi, pur su per l'estrema buccia, tal era lì da calcagni alle punte. Chi è colui, maestro, che si cruccia, guizzando più che gli altri suoi consorti, diss'io, e cui più rossa fiamma succia? E degna me, se tu vuoi che ti porti laggiù per quella ripa che il più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti. Ed io, tanto m'è bel quanto a te piace, tu sa, Signore, e sai ch'io non mi parto dal tuo volere, e sai quel che si tace. Allor venimmo in sull'argine quarto, volgemmo, e discendemmo a mano stanca laggiù nel fondo foracchiato ed arto, e il buon maestro ancor dalla sua anca non mi dipose, sin mi giunse arrotto di quel che si piangeva con la zanca. O qual che sè che il di su tien di sotto, anima trista come pal commessa, comincia io a dir, se puoi, fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assassin che, poiché fitto, richiama lui perché la morte cessa. Ed ei gridò, «Se tu già costi ritto, se tu già costi ritto, Bonifazio!» Di parecchi anni mi mentì lo scritto, «Se tu sì tosto di quell'aver sazio, per lo qual non temesti torre a inganno la bella donna, e di poi farne strazio?» Tal mi feci io, quai son coloro che stanno per non intender ciò che lor risposto, quasi scornati, e risponder non sanno. Allor Virgilio disse, «Dilli tosto, non son colui che credi», ed io risposi come a me fu imposto, «perché lo spirito tutti storse i piedi». Poi, sospirando e con voce di pianto, mi disse, «Dunque, che a me richiedi? Se di saper ch'io sia ti calco tanto che tu abbi però la ripa scorsa, sappi ch'io fui vestito del gran manto, e veramente fui figliuol dell'orsa, cupido sì per avanzar gli orsatti, che su l'avere e qui me misi in borsa. Di sotto al capo mio son gli altri tratti che precedetter me simoneggiando per la fessura della pietra piatti. laggiù cascherò io altresì, quando verrà colui ch'io credea che tu fossi, allor ch'io feci il subito dimando. Ma più è il tempo già che i piedi mi cossi, e ch'io son stato così sottosopra, che non starà piantato coi piedi rossi, che dopo lui verrà di più là ed opera di ver ponente un pastor senza legge, tal che convien che lui e me ricopra. Nuovo Giason sarà, di cui si legge, ne Maccabei, e come a quel fu molle suo re, così fia lui chi Francia regge. Io non so se mi fui qui troppo folle, ch'io pur risposi lui a questo metro. De, or mi di quanto tesoro volle nostro signore in prima da San Pietro che ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese se non viemmi dietro. Né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro o argento, quando fu sortito nel luogo che perde l'anima ria. Però ti sta che tu sei ben punito, e guarda ben la maltolta moneta che esser ti fece contro Carlo ardito. E se non fosse, ch'ancor lo mi vieta, la riverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi, che la vostra avarizia al mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i bravi. Di voi, pastor, s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sovra l'acque puttaneggiar coregi a lui fu vista, quella che con le sette teste nacque e dalle 10 corna ebbe argomento finché virtute al suo marito piacque. Fatto m'avete Dio d'oro ed argento, e che altro è da voi all'idolatre, se non che gli uno e voi onorate 100? Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco patre. E mentre io li cantava cotai note, o ira o coscienza che il mordesse, forte spingava con ambio le piote, io credo ben che al mio duca piacesse. Con sì contenta labbia sempre attese lo suon delle parole vere espresse. Però con ambo le braccia mi prese, e poi che tutto su mi sebbe al petto, rimontò per la via onde discese. Né si stancò d'avermi a sé ristretto, sì men portò sopra il colmo dell'arco, che dal quarto al quinto argine è tragetto. Quivi soavemente puose il carco soave per lo scoglio sconcio ed erto, che sarebbe alle capre duro varco. Indi un altro vallon mi fu scoverto. Fine del canto 19.